Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ottobre e dicembre del 1821. A Torino è tornato il re Carlo Felice, inizia la repressione. Sotto processo a Milano, Pellico e Maroncelli verso la pena capitale. Londra, primo censimento con l'età, metà degli inglesi a meno di 20 anni. Gioacchino Rossini lascia Napoli, il maestro verso Vienna. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, in apertura alla repressione dei moti liberali di questo 1821, iniziando dal Piemonte, l'inviato. Il 13 ottobre il re Savoia Carlo Felice ha fatto il suo ingresso a Torino. Ha preteso che non solo i nobili, i vassalli e i militari prestassero giuramento a lui, ma che lo facessero anche i sacerdoti. Nel frattempo ha fatto scattare una feroce repressione. A poco vale l'amnistia concessa dal sovrano perché, come anticipato dal Gazzettino del Risorgimento, non riguarda i crimini politici. I processi sono già iniziati, riguarderanno pare un migliaio di persone e il numero di condanne a morte, vista la gravità dei reati, potrebbe essere alto. Alcune sono già state eseguite, ma molte altre non lo saranno perché parecchi cospiratori sono fuggiti. Il codice prevede in questo caso che l'impiccagione avvenga in effigie. Sotto la forca viene messa un'immagine del condannato. Si lavora anche negli ambienti dell'esercito, dove si prevede addirittura la soppressione di interi reggimenti e molti ufficiali, di cui si scopre un appoggio anche non manifesto alla rivolta, verranno degradati. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24, Torino. Intanto nel Lombardo-Veneto stanno arrivando a conclusione i processi contro i carbonari, tra questi gli intellettuali Silvio Pellico e Pietro Maroncelli, detenuti ai Piombi a Venezia. La sentenza non è stata ancora pubblicata, ma sembra che sia una condanna alla pena capitale. I due, tra l'altro, sotto interrogatorio hanno parlato e le loro dichiarazioni hanno condotto all'arresto di un nobile liberale, il conte Federico Confalonieri, che in passato finanziò il giornale Il Conciliatore, sul quale Pellico scriveva. Anche lui potrebbe subire la stessa sorte. L'Inghilterra fa un passo avanti nello studio della sua situazione demografica. Il censimento avviato in questo 1821 sta calcolando anche le età dei britannici. Dai primi risultati emerge che metà della popolazione del Regno Unito ha meno di 20 anni. In tutto gli inglesi sono oltre 20 milioni contro i 16 di 20 anni fa. In chiusura alla musica e la cultura, c'è grande dispiacere dei napoletani perché il direttore del Teatro San Carlo, la maggiore istituzione musicale della città e del Regno delle Due Sicilie, se ne sta per andare. Dopo anni di successi è stato chiamato all'estero Gioacchino Rossini. Ora sembra che possa andare a Parigi, anche se lo vorrebbero anche a Vienna. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Paolo Piacenza e Simone Spezia, che l'ha condotta in studio. Se volete scriverci potete farlo, gazzettino@radio24.it, siamo anche su Facebook e abbiamo un blog. Buona giornata!